sociale, ogni musica. Voglio consolare il tuo dolore. Voglio consolare il tuo dolore. Non sarò come tu mi vuoi, però sono vivo. Meraviglioso silenzio questa notte. Meraviglioso silenzio questa notte. Meraviglioso silenzio questa notte. Meraviglioso silenzio questa notte. E non ricordo più il mio nome. E non ricordo più il mio nome. E non ricordo più il mio nome. E non ricordo più il mio nome. Meraviglioso silenzio questa notte. Meraviglioso silenzio questa notte. E non ricordo più il mio nome. E non ricordo più il mio nome.